Austria e Francia dichiarano guerra all'Islam politico, ma useranno le armi giuste? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Parallelgesellschaften, der politische Islam und Radikalisierungstendenzen, die haben in unserem Land keinen Platz. Sometimes I'll say, well, repression under certain conditions can have a moderating effect on Islamist groups. I'm not going to give you a question. You are fake news. I hear a sound of victory. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano e con me ci sono sempre Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternulla a confezionare questa puntata. La grammatica musicale di quest'oggi è affidata a Pietro Lacorte. 349-238-6666 è il numero per domande e commenti, sms e whatsapp. Siamo anche sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, i due account da tenere d'occhio, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. L'Islam è una religione in crisi, aveva tuonato Macron. Erdogan gli aveva risposto di farsi curare. Parigi, Nizza, Vienna, il terrorismo ha colpito ancora. E il mondo occidentale, in particolare europeo, si interroga. Si interroga sulla natura di questi attacchi, su come prevenirli, e si interroga sugli altri. Gli altri sono i musulmani, islamici, islamisti, sunniti, sciiti, tanto poco importano le sfumature. In effetti si è fatto della complessità un unico gigantesco pastone. E così il mondo si polarizza ulteriormente. Suo malgrado, l'Islam è sempre più politico perché strumentalizzato dalla politica, strumentalizzato da giovani criminali, strumentalizzato da noi che guardiamo loro senza capirli. Ieri il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato: istituiremo il reato di Islam politico. Poco prima il governo aveva disposto la chiusura di alcune moschee e oggi si prepara a nuove chiusure, ma anche un inasprimento delle leggi sulle associazioni legate a gruppi estremisti. Tra le proposte c'è la creazione di un registro degli imam ritenuti pericolosi e nuove norme per bloccare i finanziamenti a sostegno del terrorismo. Sarà questa la cura giusta? Ma soprattutto il male qual è? Questo è il tema della puntata di quest'oggi che vi proponiamo e vi sottoponiamo. 349-238-6666 per voi. Noi intanto sfogliamo con Pietro Lacorte i nostri dossier. E il primo ci riporta velocemente a Hong Kong. Abbiamo dedicato ampio spazio proprio nella puntata di ieri. I 15 membri rimanenti del fronte pandemocratico hanno ufficializzato infatti poche ore fa le dimissioni del Legislative Council. Proprio ieri in esclusiva vi avevamo fatto sentire le voci non soltanto dei 4 membri del mini parlamento di Hong Kong che erano stati sospesi dalle autorità hongkongesi, ma anche dei leader del fronte pandemocratico. Oggi però si è avuta la reazione da parte del Regno Unito, perché ha parlato il ministro degli esteri britannico Dominic Raab in una dichiarazione alla Camera dei Comuni. Ha detto che l'espulsione dei 4 deputati dell'opposizione a Hong Kong rappresenta un'ulteriore violazione degli accordi internazionali tra la Cina e il Regno Unito riguardo alla restituzione dell'ex colonia britannica a Pechino. La Cina in questo modo, ha detto Raab, ha violato ancora una volta i suoi impegni, minando gravemente l'autonomia di Hong Kong. E Dominic Raab ha ribadito che il Regno Unito continuerà a denunciare le violazioni contro i diritti e le libertà del popolo di Hong Kong e a agire con i partner internazionali per richiamare la Cina al rispetto degli obblighi liberamente assunti sulla base del diritto internazionale. Dichiarazioni forti quelle di Dominic Raab. Se avessero presa anche su una serie di altri attori importanti a livello internazionale, potrebbe esservi una sorta di cordata di salvataggio, tra virgolette, all'orizzonte per Hong Kong. Ricordiamo, come ricordavamo ieri, che alcuni paesi, tra cui il Regno Unito, ma anche Canada, Australia e Germania, si sono resi disponibili eventualmente ad accogliere e a fornire cittadinanza a quei cittadini hongkongesi che, non sentendosi più al sicuro o volendo abbandonare l'ex colonia britannica, appunto, volessero attuare quella che abbiamo definito una dissidenza all'estero. Nagorno-Karabakh, per ora la tregua regge, però iniziano, come dire, al farsi vedere quelli che sono i primi colpi di fioretto tra i due grandi attori, i due pesi massimi che si sono affacciati nella piccola regione caucasica. Se l'Armenia violerà la tregua, ne pagherà il prezzo: o lasciano il territorio volontariamente o l'eroico esercito azero se la riprenderà come ha fatto finora. Non c'è altra scelta. Direte voi, queste parole arrivano direttamente da Baku? No, arrivano da Ankara, perché è stato il ministro degli esteri turco Cavusoglu, in una conferenza stampa, a parlare in questo modo. Il capo della diplomazia azera, però, ha confermato che Ankara si occuperà del monitoraggio della pace insieme a Mosca. Interfax riporta che Russia e Turchia hanno firmato il memorandum sulla creazione del centro congiunto russo-turco. Vi davamo notizia proprio ieri di questo aspetto. E poi però il colpo di fioretto, o la nebbia del mistero, se volete, che aleggia sul trattato di pace. Il Cremlino ha detto che è impossibile la partecipazione dei militari turchi alla missione di pace in Nagorno-Karabakh. Ha parlato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Nessuna unità di pace della Repubblica Turca sarà inviata in Nagorno-Karabakh. C'è una chiara disposizione in proposito nella dichiarazione congiunta dei leader di Azerbaigian, Armenia e Russia. E poi il dossier libico, particolarmente complesso e particolarmente doloroso, soprattutto per noi italiani. Però arriva una buona notizia, se volete, uno spiraglio di luce. Fonti della Farnesina hanno confermato che questa notte, ieri notte, c'è stata una telefonata tra i pescatori siciliani sequestrati in Libia e i loro familiari. La telefonata è avvenuta attraverso l'unità di crisi del Ministero, dopo la visita del ministro Di Maio negli Emirati Arabi Uniti. Emirati che, ricordiamo, sono alleati strategici del generale Khalifa Haftar, oramai quasi caduto in disgrazia ma ancora che gode di appoggi. Quegli Emirati Arabi Uniti che avevano dato la linfa, la benzina a Khalifa Haftar per quella sua corsa verso Tripoli, che poi si è arenata tra le dune libiche, e adesso poi il tutto evidentemente passa a quelli che sono i colloqui intralibici. E a proposito di colloqui intralibici, sono in atto in questo momento in Tunisia. Proprio ieri sera è arrivato l'accordo tra le varie anime libiche per indire nuove elezioni nel paese entro 18 mesi. Il tutto con la grande soddisfazione del capo missione dell'ONU, Stephanie Williams. Ci permetterete però una piccola chiosa a questo felice accordo da parte delle varie anime libiche. Abbiamo la nettissima sensazione che la pace sia troppo fresca e la guerra sia ancora troppo calda per pensare nel martoriato paese a indire delle elezioni. Sia il Covid che la guerra hanno messo in ginocchio totalmente l'economia, i prezzi del petrolio a picco hanno reso la principale entrata petrolifera del paese, l'80-90% dipende dal petrolio, sostanzialmente acqua sporca. L'ultimo dossier che vi sottopongo, intanto vedo i messaggi che arrivano al 349-238-6666, riguarda avvenimenti del passato ad opera di soldati australiani in territorio afghano. Il governo australiano infatti nominerà un investigatore speciale per esaminare i procedimenti giudiziari su presunti crimini di guerra commessi dai soldati australiani in Afghanistan. Ha parlato il primo ministro Scott Morrison e ha dichiarato che c'è un numero significativo di incidenti che necessitano di ulteriori e complesse indagini. La prossima settimana verrà pubblicato un rapporto sui risultati di 4 anni di inchiesta militare portata avanti dall'Australian Defence Force sull'unità d'élite in servizio in Afghanistan. Sembra che siano stati monitorati almeno 55 episodi avvenuti tra il 2005 e il 2016, ascoltando 336 testimoni. Quando ha parlato, Scott Morrison ha ammesso che l'inchiesta è molto molto difficile per barriere linguistiche, per il fatto che sono stati commessi questi potenziali eventuali reati in un tempo molto molto lontano, e la difficoltà appunto nel trovare testimoni. Al momento l'Australia è attiva in Afghanistan con un'operazione con 400 soldati nel quadro di quegli sforzi di mantenimento di pace a guida soprattutto statunitense, ma sapete che adesso vedremo come sta andando la Casa Bianca, ma nei piani di Donald Trump c'era quella di riportare i militari statunitensi a casa entro Natale, e così, aveva detto anche Stoltenberg della NATO, faranno i soldati della NATO. Questi sono i nostri dossier internazionali, fatti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo e che diventeranno prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però andiamo dritti al cuore, al tema della puntata di quest'oggi, con la copertina di Pietro Lacorte e Valentina Ternullo. Il presidente Emmanuel Macron ha denunciato un attacco con arma bianca in cui hanno perso la vita 3 persone in una chiesa a Nizza. La polizia ha riportato che diverse persone hanno perso la vita in un attacco nel centro della capitale Vienna. Ce a quoi nous devons nous attaquer, quello che dobbiamo combattere, c'est le séparatisme islamiste. È il separatismo islamico. Nous ferons bloc, ils ne passeront pas. Saremo compatti. Non l'avranno vinta. L'obscurantisme e la violenza che l'accompagna. L'oscurantismo e la violenza che l'accompagna non avranno la meglio. Ne gagneront pas. Nella lotta contro l'Islam politico creeremo un reato chiamato Islam politico per poter agire contro quelle persone che non sono terroristi ma stanno preparando il terreno per questo. Queste sono le ultime dichiarazioni emosse di due importanti paesi europei, entrambi colpiti dal terrorismo islamico, Austria e Francia, la seconda più fresca, come avete sentito anche dalle parole del cancelliere Sebastian Kurz. Ieri si è tenuto un mini vertice in videoconferenza tra alcuni leader dei paesi europei, in particolare Austria, Francia e Germania, ma erano presenti anche Ursula von der Leyen, Charles Michel. Si è sostanzialmente dato un primo passo a quello che sarà un vertice che si terrà domani, che dovrebbe in qualche modo dare nuove direttive ai paesi europei per combattere l'estremismo e il terrorismo. Tante le proposte sul tavolo, poi proverò a spiegarle un po' meglio nei dettagli, almeno quello che è emerso, però il dato di cronaca più rilevante è che Sebastian Kurz, cancelliere austriaco, vuole dichiarare guerra e considerare reato l'Islam politico. Che cosa significa? Lo chiediamo innanzitutto a Youssef Sbai, ricercatore accademico, è stato anche vicepresidente nazionale dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, è un attento studioso dell'Islam ma anche dei fenomeni di radicalizzazione. Youssef Sbai, buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano. Buongiorno a tutti. Allora, intanto grazie a lei per essere con noi, ci aiuta a capire che cosa significa questa dichiarazione di guerra, considerare reato l'Islam politico. Ah, questa domanda dobbiamo farla a chi l'ha pronunciata. Io, secondo me, è ambigua quando si parla di Islam politico così in generale, perché non si tratta di un blocco statico, non si tratta di un gruppo fisso di persone, ma si tratta di un ombrello così vasto che copre tantissimi gruppi, che copre ogni gruppo, copre anche sottogruppi. Perciò sarebbe meglio che dice una o pronuncia una dichiarazione del genere di specificare di che cosa sta parlando. Sì. In questo senso, per esempio, io do l'esempio del partito politico islamico marocchino che sta governando il Marocco da 4 anni, in questo caso il presidente del consiglio marocchino sarà anche lui coinvolto in questa guerra o è sempre un alleato privilegiato dell'Occidente e dell'Europa? Non dobbiamo dimenticare che il Marocco è uno dei paesi che sono nella trincea nel contrasto della violenza, del terrorismo, del radicalismo, dei fondamentalismi. Perciò dobbiamo capire meglio da questo politico, da questa dichiarazione, di che cosa intende con l'Islam politico. Sicuramente la differenza tra la situazione o il modello marocchino, il modello pakistano per esempio, sono molto diverse. Sì. Paesi del Golfo come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi che ultimamente, negli ultimi anni, stanno prendendo il Marocco come esempio per affrontare il fenomeno del radicalismo tramite un discorso religioso o usare dei gruppi religiosi molto vicini al regime per contrastare il radicalismo. Perciò non è molto semplice dichiarare guerra all'Islam politico, perché non esiste un Islam politico, ma esistono tanti Islam politico o tanti Islam politici. La questione, io secondo me, dovrebbe essere affrontata oggetto per oggetto, caso per caso, e dichiarare questa denuncia o questa guerra o questo contrasto a ogni partito che ha delle indicazioni che indicano che questo gruppo politico è pericoloso. Certo. Anche se non è terrorista, certo. Perché nella pericolosità certe volte si tratta anche del discorso, dei messaggi che vengono veicolati attraverso il discorso, e anche lì c'è da vedere la differenza tra il discorso religioso di Daesh per esempio e quello di Hezbollah, il partito della rinascita tunisino, sono molto distanti, anche se certe volte usano delle retoriche molto simili, o delle volte usano anche dei versetti sì, gli stessi versetti del Corano, ma sì, vengono usati diversamente e usano interpretati diversamente. Perciò io vedo che siamo di fronte a un fenomeno molto complesso, molto articolato, che ha anche un profilo storico di almeno 70 anni, sto parlando degli anni 50 con la nascita del pensiero fondamentalista nelle prigionieri, nelle carceri dell'Egitto con Said Qutb, e poi che si è trasformato sempre con altre violenze come quella dell'Afghanistan e le altre attualità li conosciamo, sono recenti. È un viaggio molto complesso, ardito, tortuoso, quello che ci apprestiamo a fare in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Lo ha ben sottolineato Youssef Sbai, un ricercatore accademico, una lunga esperienza, anche pubblicazioni molto molto interessanti che hanno a che fare con quelle che sono i sermoni del venerdì, la preghiera più importante per il mondo musulmano. È stato anche vicepresidente nazionale dell'UCOI, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. Mi interessa, devo confessare che mi attrae anche questa sfida nell'utilizzare anche il lessico più corretto. Sbai aveva anche qualche forse remora nell'utilizzare guerra, no? Guerra contro l'Islam politico, e forse anche noi giornalisti stiamo commettendo degli errori. Chiedo lumi in questo senso a Stefano Allievi, professore ordinario di sociologia Università di Padova, esperto di Islam in Europa, fenomeni migratori. Professore Allievi, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Quali errori facciamo? Iniziamo a bacchettarci. Già dire guerra all'Islam politico, stiamo commettendo degli errori? Ma sono errori anche comprensibili. Devo dire che però se dovessimo fare la caccia all'errore non finiamo entro una giornata. Perché? Perché l'Islam in un certo senso si presta in quanto tale, no? Da un lato c'è il terrorismo islamico, c'è comunque una presenza che impete molto, non per quello che fa, ma per il semplice fatto che esiste, cioè perché è una minoranza significativa in Europa, sì, e noi ci siamo abituati, diciamo così. Per cui questo produce, come dire, un linguaggio anche della stampa mainstream, diciamo così, della stampa principale, che assume spesso delle connotazioni radicali. In Italia devo dire più che altrove, perché il linguaggio dei grandi quotidiani italiani è sull'Islam è molto più radicale di quello che so del, non dico di Le Monde, ma anche del Figaro o non dico del Guardian, ma anche del Times, insomma, sì, quindi sì, anche quelli più conservatori. Detto questo, il problema di comprensione è davvero quello che sta accadendo, cioè l'avere uno sguardo che lega un po' i fenomeni. L'Islam politico, lo diceva correttamente Sbai, ha una storia recente, ma è anche, come dire, un qualcosa che va definito, perché tutto l'Islam è politico e anche niente, ma per esempio ci aiuta la comparazione. Allora, vogliamo fare guerra all'ebraismo politico, al cattolicesimo politico che oggi è schierato, cioè cosa vuol dire politico? Che è uno che è iscritto a un partito? No, immagino che la guerra che si vuole fare giustamente è all'Islam radicale terrorista innanzitutto, e probabilmente a quello radicale anche per altri motivi, su altri fronti di conflitto di tipo culturale, che sono le questioni di genere, per esempio. Ma bisogna stare attenti a come la si fa. Sì, guerra è una parola problematica, posso capirla però, perché anche a Vienna, quando viene pronunciata adesso, lei è risposta a un atto terroristico. Devo dire che ho la sensazione che tutta l'argomentazione di Kurz in questi giorni sia più un segnale all'opinione pubblica austriaca che non all'Islam, cioè in qualche modo rassicurare, dire l'Islam, il governo sta facendo qualcosa o molto. E questo è proprio Stefano Allievi, certo, mi permetto di interromperla, perché proprio all'inizio di questa trasmissione dicevamo c'è anche un uso politico che facciamo noi occidentali guardando loro gli altri, sto evidentemente, come dire, per iperbole, alimentando, no, questo iato che facciamo anche della terminologia dell'Islam stesso. 349-238-6666, andare a muso duro contro un Islam, un'arma a doppio taglio, scrive un ascoltatore, molto molto controproducente, va combattuto l'estremismo. L'Islam integralista si dovrebbe combattere con l'Islam moderato, così un ascoltatore, e qualcun altro in maniera anche forse più frustrata, ma poi cosa pensano di risolvere, così Sam. abbiamo aperto con i nostri due ospiti, Stefano Allevi, Youssef Sbai, quello che è il capitolo dell'Islam politico, ma se andiamo a vedere gli ultimi eventi di cronaca in Austria, così come in Francia, le autorità investigative si sono mosse. In particolare quelle di Vienna hanno fatto irruzione in oltre 60 locali legati al movimento palestinese di Hamas e ai Fratelli Musulmani, sequestrati milioni di euro in contanti, arrestate decine di persone, una reazione piuttosto forte. Da molti si invoca il ruolo dei Fratelli Musulmani in tutto l'Occidente, ma chi sono veramente ve li raccontiamo in 90 secondi. Dio è il nostro obiettivo, il profeta è il nostro capo, il Corano la nostra legge, il jihad è la nostra vita. Morire nella vita di Dio è la nostra suprema speranza. Questo è il motto della Fratellanza Musulmana, organizzazione politico-religiosa fondata in Egitto dallo studioso e insegnante islamico Hassan al-Banna nel 1928. Sul piano religioso, i Fratelli Musulmani propugnano il ritorno al Corano secondo i principi del modernismo islamico. Sul piano sociale, chiamano i musulmani alla solidarietà e all'impegno attivo, fornendo un sistema di assistenza sociale. Mentre sul piano politico, teorizzano lo Stato islamico, interpretando l'Islam come un sistema totalizzante, senza distinzione tra la sfera religiosa e quella civile. Caratterizzata da una visione panislamista di matrice sunnita, la Fratellanza Musulmana è contraria alla secolarizzazione delle nazioni islamiche e si batte per la liberazione del mondo musulmano dagli imperialismi stranieri. Intellettuale di riferimento dell'organizzazione è Said Qutb, che nei suoi scritti rifiutava sia il socialismo sia il capitalismo, secondo il motto «L'Islam è la risposta», promuovendo la lotta armata contro il regime egiziano dell'allora presidente Abdel Nasser. Said Qutb venne giustiziato in carcere e l'organizzazione fu giudicata illegale, ma i Fratelli Musulmani sono riusciti a espandersi in Medio Oriente e Nord Africa attraverso diverse formazioni partitiche come Hamas in Palestina o Ennahda in Tunisia. Oggi la Fratellanza Musulmana è considerata un'organizzazione terroristica in paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi e Siria, mentre gode di finanziamenti e protezione più o meno esplicita da parte dei governi di Turchia e Qatar. Questa è la sintetica fotografia di uno dei movimenti forse più noti, più conosciuti, più strumentalizzati anche nei discorsi politici, la Fratellanza Musulmano. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore: forse i termini della questione andrebbero posti in questo senso. L'Islam deve considerare se stesso una religione o una politica? Forse l'Occidente vuole sollecitare la cultura islamica nello sciogliere questo nodo. E poi c'è un altro, e questo è un messaggio molto interessante, un altro motivo di imbarazzo, lo devo confessare spesso quando parlo con amici musulmani, che è quello che ogni volta che accadono eventi di questo tipo, ogni musulmano cosiddetto moderato, anche questa distinzione stranissima, queste strane etichette, viene quasi costretto a dissociarsi da quell'evento tragico. E parlando con alcuni amici, dicevano del peso incredibile nel doversi dissociare da qualcosa che è assolutamente altro da loro, a proposito di alterità. Tra pochissimo con Stefano Allevi e Youssef Sbai continuiamo questo viaggio. Vi ho avvisato, è complesso, delicato, periglioso, ma arriveremo alla fine, state con noi. Nessun luogo è lontano. La guerra all'Islam politico, ma anche quelle strane associazioni per cui appena dici Islam pensi immediatamente al terrorismo, e alcuni ascoltatori al 349-238-6666 sfidano me e i miei ascoltatori a fare esempi di Islam moderato. Altri messaggi vanno un po' più tra le pieghe, abbracciano la complessità di questa conversazione. Identificare il problema con la Fratellanza non rischia di rivelarsi un pericoloso strabismo, scrive un ascoltatore. Rischia di spianare la strada alle correnti wahabite, che sono loro rivali ma altrettanto agguerrite. Immagino che il sottotesto rispetto agli stati citati prima, Turchia e Qatar, sia Arabia Saudita. In proposito, vi do anche un aggiornamento importante su quello che è venuto ieri al cimitero non musulmano di Jeddah. Ne avevamo notizia ieri. tre persone ferite, il lancio di una granata durante una commemorazione per la fine della prima guerra mondiale. Partecipavano anche diplomatici europei, tra cui francesi e anche un console italiano, Stefano Stucci, entrambi rimasti illesi. È arrivata la rivendicazione dell'ISIS, dello Stato Islamico, ciò che resta per il momento, evidentemente, perché dal punto di vista territoriale, come abbiamo ben raccontato, del califfato rimane molto molto poco. Vorrei aggiungere carne al fuoco, lo faccio con le parole sempre molto provocatorie. Una volta era una editorialista di Charlie Hebdo, adesso scrive su Marianne. Nel 2006 firmò un manifesto contro il totalitarismo assieme a Salman Rushdie, ha scritto una serie di libri molto letti e anche molto contestati in Francia, lei è Caroline Fourré. Parliamo di un'altra guerra, quella che ha sbandierato Macron quando ha detto che in Francia è in corso un attacco contro la laicità. Sentite cosa dice. Si tratta più di un attacco contro la libertà di espressione che non di un attacco contro la laicità propriamente detta. Ma è certo che, quantomeno in Francia, dei paesi stranieri come la Turchia, il Qatar, il Pakistan e l'Iran sono alla ricerca di metodi per aumentare le divisioni. In Francia abbiamo assistito all'operato di diverse associazioni che hanno montato una campagna contro Samuel Paty, il professore che poi è stato decapitato. E queste associazioni sono sostenute e finanziate dalla Turchia. Lo sappiamo, e la Turchia ha bisogno di esercitare questa influenza per gestire la sua situazione interna. Pensiamo alla guerra innescata contro i curdi e contro gli armeni. A mio avviso, in tutta questa situazione, il contesto geopolitico è decisivo. La questione delle caricature di Maometto, ad esempio, mi pare una manipolazione che fa comodo anche a paesi come l'Iran. Ogni volta che c'è un dibattito interno, uno Stato autoritario cerca di mobilitare i musulmani per strumentalizzarli. È così, Youssef Sbai è d'accordo, e la comunità musulmana è così facilmente strumentalizzabile anche da questa querelle che sembrava tutta francese all'inizio? Più che comunità musulmana, soggetti musulmani, sì. Perché esiste sempre la guerra per procura, esiste il terrorismo per procura, esiste la strumentalizzazione delle persone, io ci credo. La questione più importante è quella di dare più spazio ai musulmani che noi intendiamo sono musulmani moderati o associazioni islamiche moderati, sì. Quelle che credono nella democrazia, credono nella libertà di espressione, crede nei valori occidentali. Quelli hanno bisogno di più visibilità, perché quando l'ascoltatore dice datemi l'esempio di qualche associazione o sì. qualche organizzazione islamica moderata, vuol dire che non c'è visibilità per questa categoria di associazioni. Soltanto io do un esempio in Italia, per ritornare in Italia, sì. Nel 2016-2017, secondo Alfano, in una riunione nel Ministero dell'Interno, lui disse che la maggior parte dei musulmani che sono stati estradati dall'Italia è stato fatto grazie alle denunce delle comunità musulmane stesse. Però non è possibile, anche per salvaguardare queste persone che denunciano, non è possibile dire nome e cognome delle persone che denunciano, delle associazioni, delle comunità locali che fanno questa scelta. Sì. Per quello che manca la visibilità per queste persone, gli imam che sono inserite nel tessuto sociale, nel tessuto culturale italiano, le moschee che sono inserite nelle attività di dialogo, di partecipazione civica, hanno bisogno di una politica inclusiva, hanno bisogno di un riconoscimento, hanno bisogno di una visibilità per far vedere ai nostri ascoltatori che esistono i musulmani, anzi la maggior parte dei musulmani che vivono sul territorio italiano credono nella cultura, nell'etica, nei valori dell'Occidente, dell'Italia, e hanno bisogno soltanto di essere conosciuti, hanno bisogno di un microfono come è stato fatto oggi, sì. E vi ringrazio per questo. Sì. Il caso francese invece di Hebdo è un po', c'è un punto che non è molto chiaro, è quello di non la mancanza della conoscenza di questo processo storico che ha la Francia dietro l'espressione politica, dietro la laicità dello Stato, la mancanza della conoscenza, dell'illuminismo, della genesi di questa tendenza filosofica di 2-3 anni. Le persone che non conoscono questo processo non possono capire come mai Charlie Hebdo o altre riviste satiriche possono prendere come soggetto una figura importante in una religione o nell'altra. Sì. Quando non viviamo più in questi paesi chiusi nelle loro frontiere geografiche come una volta, e quando succede un evento viene saputo soltanto dopo mesi e mesi, o forse anche non viene neanche saputo. Oggi quando succede qualcosa in Sud America, nel giro di qualche minuto tutte le borse del mondo vedono le conseguenze. Questo concetto di le persone che non conoscono la civiltà occidentale, sì, non riescono a capire il gesto. Purtroppo questa ignoranza di questa civiltà viene certe volte manipolata dalle persone che hanno un obiettivo politico, un obiettivo religioso, un obiettivo di questo genere, e viene affermentato al punto che noi vediamo delle manifestazioni certe volte violente in paesi islamici del sud-est, sì, o del Medio Oriente, sì, o del, sì, Nord Africa, persone, sì, che sono molto lontane dalla conoscenza di questi valori, valori occidentali, come sono nati, come sono sviluppati il loro processo storico. Io secondo me dobbiamo dare molta importanza a questo a questa lettura per poter capire la reazione, per poter anche dire ma come potremmo reagire in un mondo che è diventato un villaggio così piccolo. Sì, è un approccio, mi permetto di interrompere Youssef Sbai, ma se ben interpreto le sue parole, è un approccio più strettamente culturale, chiaramente, che è repressivo sull'epifenomeno, l'ultimo, la punta dell'iceberg, se così vogliamo usare questa metafora, del limitato estremismo jihadista che poi ha colpito l'Europa anche recentemente. Stefano Alivi, in questo senso, monitorare gli imam e le moschee può essere efficace? Perché io ho qualche dubbio. Ma guarda, intanto partirei da questo. Diciamo che i radicalisti musulmani, fondamentalisti, comunque lo si voglia chiamare, non rappresentano l'Islam più di quanto, che ne so, i suprematisti bianchi rappresentano gli Stati Uniti o gli antisemiti tedeschi da Germania. Cioè sono gruppi pericolosi che vanno, sì, monitorati, che vanno controllati, e sono nemici innanzitutto in qualche modo del loro contorno, diciamo, sì, così. Io credo che molte, siccome ho sentito le reazioni degli ascoltatori che mi sono sembrate mediamente molto più avanti del dibattito politico italiano sul tema, capaci di distinguere tra wahhabiti, sì, fratelli musulmani, capaci di dire che cosa è utile e cosa non è utile, eccetera. A me viene in mente questo, molto semplice, come ricetta linguistica, rispetto, sì, a quello che dicevi anche tu prima. Se invece parlare di Islam parlassimo di musulmani, forse la cosa è più chiara, perché tra i musulmani in carne e ossa abbiamo delle piccole frange pericolose che, sì, vanno controllate, monitorate, represse, espulse, tutto quello che vogliamo, incarcerate, prevenute prima che va bene. Abbiamo una stragrande maggioranza di musulmani, come avviene ovunque, come avviene anche rispetto agli altri casi che ho citato, che non solo è contro, ma ne paga un prezzo, sì, del terrorismo islamico, che ricade anche su di loro, l'odio, certo, per l'Islam, eccetera, eccetera. Certo. Per cui che ha effetti poi sulle famiglie, sui bambini, sui posti di lavoro, a scuola, quindi non è poca cosa, e sono i principali alleati. Quindi sono d'accordo con te, è una battaglia culturale a questo punto, sì, cioè consentire, non consentire perché è già consentito, sono d'accordo con Sbai, mettere ogni tanto un microfono anche da quelle parti lì, cioè far vedere che esiste questo Islam, perché a me, io ho sentito un milione di volte dire di fronte ad un attentato, ma non si sono dissociati. Eh sì. Sì. Ora, primo, non è vero, perché semplicemente nessuno riprende i comunicati stampa, sì, persino le manifestazioni che sono state fatte, sì, dopo il primo Charlie Hebdo, dopo in Italia anche, no? Ma anche Stefano, la pronuncia di Al-Azhar, che è il faro della comunità sunnita nel mondo, ne abbiamo dato conto dopo gli ultimi attentati, però sembra che passino sempre in cavalleria. Abbiamo un problema, abbiamo un problema noi come occidentali nell'abbracciare una cultura diversa, lo dicevamo inizio trasmissione. Ancora purtroppo loro sono altro. Dobbiamo fare uno sforzo, credo che lo sforzo vada fatto da tutti noi in primis, che raccontiamo storie, cerchiamo di restituirvi le dimensioni più complesse della realtà. Continuiamo questo sforzo, adesso ne facciamo un altro, andiamo sulle strade italiane e vediamo come se la cava chi sta guidando, e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. La guerra dichiarata da parte di Francia e Austria al cosiddetto Islam politico. Stiamo provando a fare tutti distinguo in questo viaggio, qui a Nessun Luogo Lontano, provare a abbracciare la complessità e illuminare le tante zone d'ombra che la maggior parte dei media purtroppo tende a trascurare, creando due narrazioni assolutamente contrapposte. Ne siano prova i tanti messaggi che arrivano al 349-238-6666, una minoranza, per carità, devo dire la verità. Batte su un punto, su degli slogan, su degli stereotipi, dei pregiudizi, lo dico nel senso etimologico del termine, giudicare prima di vedere, prima di conoscere. Non esiste Islam moderato, scrive un ascoltatore su Facebook. L'Islam è violento per sua natura, sono 1400 anni che fanno i morti, e per fortuna un ascoltatore le risponde immediatamente in diretta, il cristianesimo invece di morti non ne ha fatti. A questo siamo arrivati, ma evidentemente è anche un problema di narrazione, di come noi giornalisti proviamo a narrare la realtà. Il fenomeno qual è? Beh, il fenomeno è che c'è una quota della nostra popolazione, molto spesso ormai cittadini italiani, che professano un'altra fede e contro i quali però si è scatenata in alcuni casi quella che viene bollata come islamofobia, in altri casi una certa indifferenza che non ha permesso di far sentire la loro voce. Con Stefano Allievi e Youssef Sbai stiamo provando a capire le ragioni di questo motivo, mentre domani, vi ricordo, ci sarà un altro vertice europeo sulla gestione del fenomeno terrorismo. Si incentra molto sulla questione immigrazione. Questo secondo me è un gravissimo errore, perché la maggior parte degli attacchi, tranne Nizza e transitato per Lampedusa, arrivano da persone che sono già residenti in territorio europeo, e questo succede ormai praticamente dal 2015 in poi. Prima di tornare per i saluti finali e il commento finale ai miei ospiti, vi faccio sentire ancora la voce di Caroline Fouret, che è stata editorialista di Charlie Hebdo. In particolare un commento su quella che è stata lo smantellamento da parte del governo francese di alcune associazioni islamiste come Barak City, accusate di essere contro la separazione tra la religione e la politica. Creare l'Islam di Stato può proteggere il pluralismo? Questo è quello che le abbiamo chiesto e questo è quello che lei risponde. Penso che in questa domanda ci siano molti equivoci. Nessuno sta cercando di creare un Islam di Stato, neanche Emmanuel Macron, perché si tratterebbe di un tentativo contrario alla laicità. Mi pare che questa idea della Francia che cerca di creare un Islam di Stato sia frutto di un equivoco e di una disinformazione veicolata sfortunatamente dalla stampa americana, che non comprende davvero la sostanza del dibattito. La verità è che esiste già un Islam di Francia, ed è un Islam prevalente, e all'interno di questo Islam è in atto un attacco contro i musulmani laici e i musulmani integrati. È un attacco molto violento, ed è normale, perché il dibattito stesso all'interno dell'Islam in questo momento è un dibattito molto violento. La Repubblica non deve intervenire in nessun momento sul contenuto teologico e religioso di questo dibattito, ma allo stesso tempo la Repubblica non deve lasciare liberi di agire dei gruppi politici che minacciano i concittadini. In Francia, in questo momento, assistiamo a un terribile incremento di antisemitismo, omofobia, sessismo. Assistiamo a decapitazioni e sgozzamenti che sono legati all'odio diffuso da alcuni gruppi integralisti e fanatici. Dopo la decapitazione del professor Samuel Paty, è stata aperta un'inchiesta e si è scoperto che il suo nome era arrivato al terrorista ceceno attraverso una campagna islamista estremista che lo aveva bollato come islamofobo e che i promotori di questa campagna avevano deformato la lezione tenuta dal professore in classe. Perché questi non sono gruppi finanziati e sostenuti dalla Turchia e dal Qatar, ma sono dei gruppi che montano delle campagne per indicare degli obiettivi a un bacino di assassini fanatici che poi passeranno all'azione. Dunque, per evitare altre morti, bisogna bloccare questi gruppi che invitano all'odio. Ed è a questo che si riferisce il presidente Macron quando parla di separatismo. Macron non usa il termine islamismo, giustamente, per non generare confusione. E usa la parola separatismo per indicare in maniera molto precisa solo quei gruppi che incitano all'odio e ispirano dei cittadini ad agire contro la Repubblica al punto da renderli pericolosi. Ed è questo il caso di Barak City e di tutte le altre organizzazioni che sono state sciolte. E d'altra parte va sottolineato che non è una misura specifica adottata contro i gruppi islamici. Solo nel 2013, ad esempio, le stesse misure hanno portato allo scioglimento di due gruppi di estrema destra, Le Vrai Français e Jeunesse Nationaliste, per gli stessi motivi, ossia che costituivano una minaccia alla Repubblica. Questa è la voce, l'analisi di Caroline Fouret, ex editorialista di Charlie Hebdo. Io devo scusarmi con i miei ospiti, ma dobbiamo chiudere perché siamo già in ritardo. Ringrazio tantissimo Stefano Allievi, Università di Padova, Youssef Sbahi, ricercatore accademico, e mi riprometto, visto che il tema è caldissimo e visto che la complessità va abbracciata, di richiamarvi molto presto in onda, perché se la realtà è complessa, noi abbiamo una missione che è quella di raccontare. E naturalmente ringraziarvi per essere stati all'ascolto, un ringraziamento anche a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.